vecchio vino. Non so, Turiddu è andato a provvederne. Se sempre qui, l'ho visto stamattina, vicino a casa mia. Come tacete?